Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'isola di Arturo, di Elsa Morante. La mia malattia durò ancora un paio di giorni. A quanto ne intesi, poi, sembra che la dose di sonnifero da me ingerita, insufficiente, secondo le informazioni che ne avevo ad uccidere un uomo, potesse invece bastare benissimo ad uccidere uno della mia età, e cioè ancora piuttosto ragazzo, nonostante la mia pretesa. Così io avevo rischiato, senza volerlo, di morire veramente, e mi ero salvato in virtù della mia buona costituzione fisica. Rimasi però malato in letto quasi mezza settimana, un caso che non mi era mai capitato prima a memoria mia. Nunziata stava sempre accanto a me, ad assistermi, e d'altro non s'occupava. Dire che ella fosse un'infermiera esimia sarebbe una bugia, perciò che io posso capirne di queste cose. Per sua natura, difatti, ella non possedeva le doti speciali, anche pedantesche sia pure, che ci vogliono per un'infermiera. E non per colpa sua. Ma le intenzioni c'erano, e di più, ecco il fatto più importante, si poteva vedere dagli sguardi e dai modi che aveva mentre mi stava intorno che in quei giorni tutta l'anima sua, con una specie di spasimo sublime, si tendeva ad un solo scopo, la cara, preziosa esistenza del figliastro Arturo. Essa aveva provveduto ad appendere a capo del mio letto, per salvaguardia della mia guarigione, una delle sue madonne, precisamente la più fatata, la infallibile, quella di Piedigrotta. E talora, a sogguardarla mentre essa mi credeva addormentato, io potevo sorprenderla nell'atto di bisbigliare a mani giunte verso quella vergine famosa, con i supplici occhioni umidi di pianto e illuminati da una superstizione celeste. E per chi pregava? Per me! Il quarto giorno della mia malattia, la fastidiosa nausea era sparita del tutto, lasciandomi solo un languore di debolezza, e fin dalla mattina presto mi accorsi subito di stare meglio assai. Però avevo voglia di approfittare del mio suicidio ancora un giorno almeno, e quando essa mi domandò «Come ti senti, Artù?», mormorai fra i denti in risposta «Sono agli estremi, maledizione, sono spacciato». E per tutta la mattinata seguitai a fingermi immerso in un sopore angoscioso, mentre invece ero sveglio. Ogni tanto facevo lo svenuto con le palpebre semiaperte, per il gusto di intravedere quegli occhioni allarmati chini sul mio volto. Ma verso mezzogiorno incominciai a stufarmi di rappresentare questa parte agonizzante, e sentendo per la prima volta dopo il suicidio un ritorno di fame, mi lasciai nutrire di buona voglia. Essa doveva addirittura imboccarmi in quei giorni, tanto ero debole e tramortito. Quindi mi addormentai, stavolta di un sonno vero, e riapersi gli occhi sul primo pomeriggio, con un sentimento delizioso di sorpresa e di freschezza. Subito Nunz si accostò, e al vedere il mio sguardo rischiarato, tremò addirittura di gratitudine. «Ti senti meglio, Artù? Ti serve niente?» mi chiese con una voce che quasi cantava. Le risposi stirandomi che stavo meglio e non mi serviva nulla, volevo solo riposarmi. Allora essa, per non darmi disturbo, tornò a sedersi al suo solito posto sul divano senza dire altre parole. Fuori della finestra si scorgeva una minuscola nube che in pochi istanti prese dapprima la forma di una conchiglia, poi di una piccola mongolfiera, poi di un cono gelato, poi di una barba di vecchio e poi di una ballerina. E in quest'ultima forma, stendendosi e allungandosi come una vera ballerina, si allontanò. Al passaggio di quella nuvola, non so per quale richiamo, mi tornò con precisione alla mente tutto ciò che avevo pensato e fatto la mattina del mio suicidio, fino al momento della mia caduta sull'erba. Eppur senza guardare verso Nunziata, d'un tratto dissi forte «Di, quel foglio che lasciai l'hai stracciato?» Il suono della mia voce dopo la malattia mi stupiva un poco ad ascoltarlo per certe note ruvide e basse che non c'erano prima. La vocina di lei invece era sempre la stessa. «Sì, l'ho stracciato!» «Hai letto? Che c'era scritto?» «Segretezza! Silenzio!» Non hai parlato? No, non ho parlato. Bada, nessuno deve sapere la verità. Devono credere che io non avevo nessuna intenzione e che è stato uno sbaglio casuale e basta. Così hanno creduto. Martù, che hai fatto? E con mio padre tu devi stare zitta. Ma se venisse a sapere qualche cosa, tu gli devi far credere lo stesso come all'altra gente. Tanto quello con chi parla. Lui non saprà niente da nessuno. Però in ogni caso tu non gliela devi dire mai la verità. Lui più di tutti non deve sapere mai. Io non gli dirò mai la verità. Martù, che hai fatto? Che hai fatto? Quella sera stessa volli alzarmi per cena. Ero ancora un po' malfermo sulle gambe e scesi le scale con qualche stento, ma risalendo dopo cena mi sentivo già più saldo e la mattina seguente mi levai da solo, all'alba, pieno di impazienza e di fame. La mia malattia era finita. Altro non ne restava più che una specie di ubriachezza che dava ai miei passi un estro e una sonorità danzante. I primi rumori del giorno, echeggiando per l'aria fresca di fuori, parevano rispondermi in una sordina meravigliosa, come fossero gli accordi di un'orchestra che m'accompagnava. Non so quale capriccio subitaneo mi consigliò in quel momento di nascondermi dietro l'angolo esterno della casa. Ella certo dovette stupirsi, arrivando, di trovare la porta finestra aperta e nessuno in cucina né sullo spiazzo. E la udì che, lasciato in cucina Carmine, risaliva di sopra, certo per constatare se io veramente già ero sceso dal letto e uscito in quell'ora così mattiniera. Dopo un minuto ritornò da basso e si fece sullo spiazzo, incerta. Non pensò a cercare dietro l'angolo, ma si spinse invece verso la discesa della spiaggetta, dove incominciò a chiamare senza risposta: «Arturo! Artù!» A Aveva una vesticciola rossa e andava del tutto scalza per l'abitudine presa nella mia assistenza in quei giorni. Sullo spiazzo, a quell'ora del mattino, si allungava ancora l'ombra del muro. Solo l'ultima striscia, dove lei stava, era già raggiunta dal sole che saliva da dietro la casa, e le sue gambe nude, in quella luce rosa, avevano un colore ingenuo che mi ispirava curiosamente a ridere. Fece qualche passo scrutando qua e là, con l'aria preoccupata di una madre gatta, i ricci e le vesti mosse dal vento. Poi, d'un tratto, si dette a chiamarmi dall'alto della discesa. D'un tratto io presi una corsa e, sopravvenendole alle spalle, le dissi: «Sono qui!» In un trasalimento di sorpresa si volse contenta e rimbrottò: «Ma dove te ne stavi? Ma come, già ti metti in giro?» Quindi, forse confusa da un che di aggressivo nei miei modi, mormorò riguardandomi: «Artù, in questi pochi giorni ti sei fatto più alto!» A tali sue parole, io mi accorsi allora che per la prima volta la sopravanzavo ormai di statura. Questo mi parve il segno di una mia potestà anziana, fiera e gioiosa, e intanto ella si andava discostando impercettibilmente da me. Ciò era come confessarmi che le batteva il cuore. All'improvviso la strinsi, baciandola in bocca. Le sue labbra avevano un sapore freddo, marzolino, e la prima sensazione che ne ebbi non mi parve molto diversa da quella che si prova mordicchiando un'erba o assaggiando dell'acqua di mare. Il mio pensiero in quel primo istante era: «Dunque, adesso anch'io conosco i baci. Questo è il mio primo bacio». E un tale pensiero, mischiato di un vanto appena incuriosito, quasi mi distraeva da lei. Essa, da principio, non tentò neppure di sottrarsi, confusa nel suo stupore inerme. La sentii mormorare fra le mie labbra: «Artù», come se non mi riconoscesse, e aggrapparmisi come per chiedere a me aiuto, mentre che io, in una specie di affermazione spavalda, la stringevo più forte, premendo le mie labbra contro le sue. Intorno alle sue palpebre ammorbidite si era sparso un pallore debole e attonito. Le sue labbra, da fredde, si erano fatte brucianti. E allora io sentii nella bocca un gusto di dolcezza sanguinosa che in un attimo distrusse nella mia mente tutti i pensieri. Di un tratto la mia voce disse: «Nunziata, Nunziatè!» Ma in quel momento medesimo ella si strappò da me con una disobbedienza feroce e incominciò a negare con la testa in un modo tenero, sbigottito e febbrile. Per un minuto stette così, a un passo da me, come se trasognata interrogasse un mistero. Ma la sua testa ricciuta si ostinava in quella sua negazione feroce e i suoi occhi già mi evitavano, pieni di colpa e di spavento. Si avverava dunque la mia antica ambizione di farle anch'io paura non meno di mio padre. Non mi sfuggiva però una dissimiglianza fra le due paure. La sua paura di mio padre, sempre rimasta nel mio ricordo, era un'angoscia che sembrava ghiacciarle tutte le membra, mentre che la sua presente paura sembrava contraddirsi in se stessa e ardere in questa contraddizione. Nel momento stesso che la sua volontà disperata ripudiava il mio bacio, il suo corpo mi implorava all'opposto di ribaciarla ancora. Questa implorazione palpitante e selvaggia attraversava tutte le sue membra, dai piedi rosa alle punte del petto che sporgevano acute sotto la maglia, e nei suoi occhi spaventati trasaliva ancora quello sguardo umido, meraviglioso, intinto di un vapore azzurro che vi avevo intravisto poco prima mentre la baciavo. Gridai di nuovo: «Nunziata, Nunziatè!» e fui sull'atto di correre verso di lei. Ma lei, al proprio nome chiamato dalla mia voce, rispose con un grido pieno di sgomento, diabolico e brutale. Poi, coprendosi la faccia, esclamò con una spietata certezza, quasi formulasse un giuramento sacro: «No, no, Dio mio!» E dandomi uno sguardo di severità vitrea, addirittura snaturata, fuggì via da me come da un nemico. Thank you. Così, con quel bacio, io avevo nuovamente disfatta la nostra amicizia, e stavolta senza rimedio. Dopo quel fatale avvenimento, bastava che io entrassi in una stanza dove ella si trovava, bastava che io le comparissi dinanzi e subito ella perdeva ogni sicurezza e spontaneità. A volte si sarebbe detto che ella si riparava dietro la cesta di Carmine o lo stringeva fra le braccia per difendersi da un intruso che la impauriva. Ed ero io l'intruso. Ma il fatto più strano, che ancora non ho detto, è questo: che io stesso, in presenza di lei, avevo paura. Dico paura perché allora non avrei saputo definire con altra parola più vera il mio turbamento. Da quando l'avevo baciata, io non potevo rivederla senza provare un batticuore mortale, che mi incominciava fin dalla strada, appena mi si mostrava là in fondo la casa dei Guaglioni. Ormai non potevo rivederla senza risentire la necessità, veemente e irresistibile, di stringerla e di baciarla ancora. Ma come potevo imporle questa mia necessaria pretesa se lei mi si era fatta nemica proprio a causa del mio bacio? Avevo la sensazione, tanta era la sua paura, che se l'avessi abbracciata e baciata ancora un'altra volta l'avrei uccisa. L'ho detto che quella fu una bizzarra stagione per me. Il contrasto fra me e la matrigna non era che uno degli aspetti della grande guerra che rapidamente, col rifiorire della primavera, sembrava essersi scatenata fra Arturo Gerace e tutto il creato restante. Il fatto era che il ritorno della bella stagione in quell'anno per me si accompagnò, credo, col passaggio di quell'età che viene detta dalle buone famiglie età ingrata. Fu allora che per la prima volta nella mia vita io sentii davvero tutta l'amarezza di essere soli. Incominciai a rimpiangere disperatamente la presenza di mio padre. Nella mia nostalgia mi facevo di lui un ritratto romantico e non troppo rassomigliante, devo dire. Dimenticavo assolutamente che fra noi non c'era mai stata nessuna confidenza e che certe cose, a lui soprattutto, non avrei mai potuto né saputo confidarle. Dimenticavo perfino il suo contegno degli ultimi tempi, non certo incoraggiante per la conversazione. E ricominciai, al modo di quand'ero ragazzino, benché per motivi differenti, ad aspettare ogni giorno Wilhelm Gerace. Mi trovavo fedelmente, ostinatamente sulla banchina, ad ogni arrivo del piroscafo da Napoli, finché, com'era inevitabile, un bel giorno egli ritornò. Come lo vidi comparire sul ponte di coperta, dinoccolato e solitario, che si teneva un po' indietro dal piccolo gruppo dei passeggeri in arrivo, mi detti a chiamarlo dal basso, con gioia infrenabile. Ma subito mi avvidi, dalla sua espressione, che egli era quasi contrariato di trovarmi là. E quando mi fu vicino, trascurando di salutarmi, mi invitò ad avviarmi verso casa senza di lui, che doveva trattenersi qua e sarebbe venuto poi, per suo conto. «Ci rivediamo fra poco, a casa», disse. Poi, adocchiandomi, benché distratto, soggiunse: «Ehi, ma che hai fatto, Arturo? Come sei cresciuto in questi mesi?» Tale frase gelida e frettolosa fu tuttavia l'unico segno di attenzione che egli mi diede. In realtà, le sue pupille parevano a malapena vedermi in quel momento. «Dunque», ripeté, «a più tardi». E le sue maniere disorientate, un po' febbrili, tradivano solo l'impazienza di liberarsi della mia persona. Io però non ubbidii alla sua ingiunzione di avviarmi a casa. Volli anzi, quasi per una sfida, rimanere sulla banchina. E mosso qualche passo indolente, mi arrestai a poca distanza da lui, presso una catasta di merci a cui mi appoggiai col fianco, nell'attitudine che hanno i guappi in certe vignette della malavita. Non volevo a nessun costo mostrargli la mia mortificazione amara. Ma egli, pago di essere lasciato solo, non si preoccupava di constatare se gli avessi ubbidito o no. Rimaneva fermo presso la scaletta dell'attracco, la sua valigia ai piedi, come in attesa di qualcuno che dovesse fra poco sbarcare dal suo stesso piroscafo. E intanto teneva le palpebre sdegnosamente basse, senza badare né a me, né a nessuna cosa intorno. Chi poteva essere, dunque, il passeggero ritardatario che gli aspettava. Forse stavolta non era arrivato solo sull'isola? Fra queste supposizioni, in segno di arroganza, io non distaccavo gli occhi da lui e notai quanto fosse dimagrito. Ma che aspettava dunque? Secondo ogni evidenza, i pochi passeggeri destinati a Procida erano tutti sbarcati dal piroscafo, tanto che già si erano fatti salire i partenti e si attendeva solo il segnale di orario per togliere l'ormeggio e salpare. Forse, pensai con ironia, aspetta qualche ergastolano. Ai nuovi ospiti del penitenziario, infatti, si riservava per lo sbarco l'ultimo turno, quando il movimento delle partenze e arrivi cessava e si diradava la piccola folla sulla banchina. Avevo pensato aspetterà un ergastolano solo per un'induzione ironica, senza prevedere invece che indovinavo il vero. Mi avvidi in quel punto che la camionetta del penitenziario, da me non notata prima, sostava all'imbocco della piazza e che una guardia in divisa grigio-verde, con la baionetta a tracolla, passeggiava in prossimità del piroscafo avanti e indietro. Segni sicuri, questi, che a bordo c'era un qualche nuovo ospite del castello di Procida, tuttora rinchiuso nella cabina di sicurezza presso la stiva, in attesa che le due guardie addette al suo seguito lo traessero a terra. Per solito, ogni volta che al porto faceva la sua apparizione un terzetto consimile, il mio cuore immediatamente si dava al condannato. Poteva anche avere un'apparenza abietta, atroce, da pessimo furfante. Non contava. Era un prigioniero e quindi, per me, angelico. Al primo vederlo sognavo fraternità, evasioni e mentre in segno di rispetto distoglievo le pupille da lui, avrei voluto gridargli la mia complicità. Stavolta, invece, avevo appena allungato un primo sguardo sul nuovo ergastolano e già nutrivo per lui un'antipatia selvaggia, tale da non consentirmi di discernere limpidamente i suoi tratti, che giudicai senz'altro di una bruttezza orrenda, giudizio contrario al vero. Posso dire, insomma, che fin da quel primo attimo gli votai un odio definitivo. Ciò che potei notare di lui, con i miei occhi avversi, durante quel suo rapido passaggio, fu anzitutto che si trattava di un condannato estremamente giovane. Mostrava ancor meno dell'età minima necessaria che certo doveva avere per essere un galeotto. Inoltre, nel tempo brevissimo che durò quella scena, ebbi in dono una sensibilità vicino alla veggenza, quale si trova a volte nelle donne o negli animali. Per esempio, avvertii subito, con sicurezza, che mio padre conosceva quel condannato non da oggi, ma da prima, e lo sguardo che gli rivolse non mi si cancellerà mai dal cuore. I suoi occhi, sempre i più belli del mondo per me, come due specchi al passaggio di una forma celeste, si erano fatti di un turchino limpido e favoloso, senza nessuna traccia della loro solita ombra torbida, e la loro espressione poteva significare un saluto fedele, un'intesa immaginaria, un'accoglienza povera e disperata, ma prima di tutto significava un'implorazione. Sembrava che Wilhelm Gerace chiedesse una carità a colui. Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo di Elsa Morante. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.